Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti finalmente insieme. Come state? Intanto iniziamo a sentire i titoli del nostro sommario, magari ci tiriamo su, oggi tanti temi per discutere insieme. Io inizio a darvi il nostro numero verde, 800 24 0024. In regia c'è Peter Bescapè, in redazione c'è Laura Vanossi, siamo tutti pronti, anche già l'ospite in studio, via, partiamo. Cosa ti dà e cosa ti toglie il tuo lavoro? Ogni pillola ha la sua ora. Chi studia musica apprende meglio. Il lavoro non mi piace, non piace a nessuno, ma a me piace quello che c'è nel lavoro, la possibilità di trovare se stessi. Conrad. Ci avete mai pensato a tutto quello che il vostro lavoro ha aggiunto alla vostra vita, anche alle vostre competenze? Del resto, però, come tutte le cose, c'è anche l'altro lato della medaglia. Certamente il lavoro ha tolto anche qualcosa alla vostra vita. Ma mentre sempre, quasi sempre, questo tipo di bilancio è di natura esistenziale, ci si chiede avrei voluto essere o diventare, mi è andata bene, perché ce l'ho fatta, oggi vogliamo trasformarlo in qualcosa di un po' diverso. Insomma, cercare di farlo diventare un bilancio a favore del nostro benessere. D'altronde siamo a essere benessere, cosa potremmo fare d'altro? Comincio con presentare il nostro ospite che ci accompagnerà in questa puntata, è qua in studio con me, voi lo conoscete già bene, modera il nostro forum sulla scrittura e sulla lettura, è il dottor Luigi Ballerini, medico, scrittore e psicanalista freudiano. Buongiorno. Eccola, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Dottor Ballerini, insomma, se dovessimo, e l'abbiamo fatto, dare un titolo a questa puntata, potrebbe essere cosa ti ha dato e cosa ti ha tolto il tuo lavoro. Però, io vorrei andare oltre, perché mi piacerebbe anche ascoltare, quindi è un invito che faccio già sin d'ora, chi ha dovuto o ha scelto di rinunciare al lavoro in toto, no? A un tipo di lavoro, o la carriera, no? Per seguire la famiglia, oppure i propri interessi, oppure per coltivare le proprie passioni, o perché ha potuto farlo, perché non tutti possono fare poi questa scelta, bisogna mangiare tutti i giorni. Dottor Ballerini, lei che dice? Ma io inizierei a buttiamo lì che il lavoro, al lavoro non si rinuncia, semmai lo trasformiamo, per cui facciamoci raccontare come abbiamo trasformato il nostro lavoro, magari prima che il lavoro trasformasse noi. Mi faccia qualche esempio. Ad esempio, potrebbe darsi che un lavoratore dipendente sceglie, non perché è forzato, ma perché decide di cambiare, sceglie di intraprendere una libera professione. Oppure può darsi che questa scelta sia forzata, può darsi che uno perda il suo lavoro, può darsi che venga licenziato e allora, come si dice, o per amore o per forza, in questo caso non per amore ma per forza, dovrà reinventarsi e pensare un nuovo lavoro. Ecco, io tra l'altro per tutte le persone che stanno pensando di reinventarsi e devono gioco forza cambiare lavoro, voglio ricordare il titolo del suo libro, un libro molto interessante che a me è piaciuto molto, a parte la copertina, devo dirle, che non mi piace. 120 giorni che ti cambiano la vita, strategie e riflessioni per futuri, tra parentesi, ex capi. Quindi un libro destinato ai manager, ma non cambiano lavoro solo i manager, naturalmente. Assolutamente no, e quando uno si trova incastrato, invischiato in una situazione di perdita di lavoro, che sia manager o impiegato o casalinga o qualsiasi altro lavoro, quando non possiamo più fare quello che potevamo prima, il trauma c'è per tutti. 800 24 0024. Però una cosa è certa, che non tutti hanno la possibilità di scegliere il lavoro per il quale si sentono portati o che amerebbero fare. Molto spesso, dottor Ballerini, bisogna fare buon viso a cattivo gioco. A parte questo, però, è assodato che il lavoro che facciamo ci cambia, sviluppa capacità, ne addormenta, ne assopisce altre, forse un po' come credo succeda con l'attività motoria, perché il benessere, noi lo impariamo al venerdì nei nostri appuntamenti col dottor Confalonieri, deriva appunto dall'equilibrio, ad esempio, come chi corre deve comunque pensare a sviluppare anche gli altri muscoli oltre a quelli delle gambe, chi fa un determinato tipo di lavoro deve comunque cercare di stimolare, coltivare anche quelle competenze che all'apparenza non servono nello specifico per svolgere la propria attività, ma che magari sono funzionali al benessere. Insomma, un lavoro di compensazione, di piene di vuoti. Allora, proviamo, partendo dal tipo di lavoro, a individuare che cosa ci dà, in che cosa ci rende migliore, quali competenze coltiva e contemporaneamente in che cosa ci limita, per trovare un po' la formula dell'equilibrio che poi in fondo credo il segreto del benessere. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Centonze, ricercatore di neurologia presso l'Università Tor Vergata di Roma e di neuroscienze presso la Fondazione Santa Lucia. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Quando c'è un compito un po' difficile, io chiamo lei. La ringrazio per la fiducia. Senta professore, la prima grande distinzione è tra lavoro manuale e lavoro creativo, due tipi di attività che impegnano, credo, in modo diverso il nostro cervello. Sì, assolutamente. È assolutamente vero quanto dice. Sicuramente non esiste un unico tipo di lavoro e non esiste un'unica forma di sollecitare il cervello durante le attività lavorative. Esistono lavori più prettamente manuali che attivano delle funzioni di destrezza e di abilità motoria e dei lavori invece più prevalentemente intellettuali e creativi che invece si rivolgono ad attivare altre aree cerebrali. La metafora da lei proposta, il parallelismo da lei proposto con l'attività del podista, che ha necessità di sviluppare armonicamente non soltanto gli arti inferiori ma gli arti superiori, è perfettamente congrua con quello che succede nel lavoro. E sa, nei secoli abbiamo assistito a una progressiva crescita dell'importanza del lavoro nella società, all'inizio limitata soltanto, è considerata un'attività ignobile, quindi limitatissima per quanto possibile nel tempo. Adesso invece il lavoro è per tutti noi molto importante. Con l'aumento dell'importanza del lavoro sono cresciute, sono arrivate alla nostra attenzione recentemente delle vere e proprie sindromi neuropsichiatriche da iperlavoro e di conseguenza la necessità di affiancare al lavoro delle attività di significato ricreazionale che hanno la funzione un po' di annullare gli effetti di questo sbilanciamento di attività. Di questa sorta di intossicazione da lavoro. Esatto, è proprio così. Faccio riferimento ad esempio a due sindromi molto insomma interessanti che sono arrivate alla nostra attenzione in anni recenti, soprattutto grazie alla letteratura scientifica americana. Sì. Una è la cosiddetta sindrome da dipendenza del lavoro, l'altro è il cosiddetto burnout, sono delle nomi che ormai entrano sempre più anche nel linguaggio comune. Il primo fa riferimento all'impossibilità dovuta in parte alla dedizione per la maggior parte del tempo e per la maggior parte delle energie mentali all'attività lavorativa. È qualcosa che in qualche modo costringe le persone a un inaridimento e a ricercare nel lavoro le uniche forme di gratificazione. È importante notare che in questa malattia in realtà poi spesso i pazienti o le persone coinvolte non soffrono tantissimo, almeno che poi non si trovano nella situazione paradossale di dover interrompere il lavoro. Quindi, così come le dipendenze da farmaci, in realtà in queste forme possiamo assistere a delle vere e proprie crisi di astinenza durante il weekend e quindi molto frequentemente sono persone che lavorano durante il weekend o nel tempo che dovrebbe essere libero. E ci sono anche delle basi biologiche a questo. In realtà una gratificazione o una gratificazione immediata in termini così, per quello che può essere una scoperta scientifica nel mio settore ad esempio, una gratificazione della scoperta in sé, oppure addirittura la previsione di una gratificazione futura, quindi nulla che in quel momento realizzi davvero un sogno, dia gioia o aumenti anche autostima eccetera, può funzionare come predittivo di una gratificazione futura. E basta addirittura che ci sia appunto una spia di questa progressione, di questo avanzamento per mettere tutto in moto. Assolutamente. Senta, dottor, professor Centon, se io vorrei fare con lei una sorta di scheda gioco, eh? Sì. Allora, io ho individuato, proprio a flash, ho cercato di individuare tre o quattro categorie di lavoro, proviamo a vedere quali competenze attivano, magari quale parte del cervello, a noi piace visualizzarlo, il cervello, e che cosa dovrebbero fare per non cadere, no, dalla padella alla braccia, e quindi evitare che il lavoro diventi una sorta di malattia o le impoverisca proprio perché non riesce a stimolare tutte le competenze. Io inizierei dal lavoro d'ufficio. Penso alla contabilità oppure alle pratiche burocratiche da seguire, smaltire, un lavoro sedentario, spesso legato a cifre, pratiche da evadere, è molto frequente. Io credo che bisogna esserci un po' portati, io farei grandi pasticci. Quale parte del cervello attiva e come potrebbe compensare per stare in equilibrio? Guardi, è impossibile di rispondere in maniera univoca. Direi che anche è in relazione, cioè le diverse attività, le diverse aree cerebrali si attivano in maniera differenziale anche a parità di compito specifico a seconda ad esempio dell'esperienza. È evidente che all'inizio un lavoratore ha necessità di coinvolgere delle aree cerebrali più complesse, quindi di significato corticale, attentivo, molto spiccatamente, molto attivamente. Quando il lavoro invece diventa più automatico, più ripetitivo e anche più semplice, in realtà c'è una concentrazione di attività cerebrale in delle aree che invece comandano più appunto l'attività abituale, quindi delle funzioni ripetitive, delle motorie, e quindi possono addirittura liberare le aree cerebrali superiori per altri compiti. Non è infrequente ad esempio osservare come quello che all'inizio ci coinvolge interamente anche da un punto di vista di concentrazione e di emotività poi diventa progressivamente più automatico, permettendoci ad esempio mentre si fa un'attività di ufficio ripetitiva di pensare di anche ad altro, il cervello ad altro. Professor Centonze, vedo che il dottor Ballerini vuole intervenire. Dottore. Ma, professore, occupandomi in particolare di manager, che sono quelli che potremmo definire con un lavoro con una responsabilità di tipo strategico e che peraltro sono quelli che più facilmente cascano nell'essere i workaholic, no? Con questa dipendenza dal lavoro, insomma questi manager, quadri dirigenziali piuttosto che anche liberi professionisti che si impegnano in proprio e ci spendono del proprio per portare a casa la loro soddisfazione professionale e lo stipendio, qui abbiamo delle parti cerebrali diverse che sono attivate oppure sono le stesse ma in modo diverso? Guardi, direi che si attivano delle parti cerebrali diverse, sono soprattutto le aree coinvolte nel cosiddetto circuito della gratificazione, quindi le stesse aree, ripeto, attivate in qualche modo anche dalle droghe d'abuso o da esperienze particolarmente gratificanti, aree quindi localizzate nella profondità degli emisferi cerebrali che riconoscono nell'attività di un neurotrasmettitore particolare, la dopamina, il mediatore di queste sensazioni di ebbrezza. Per questo loro molto spesso non riescono proprio a staccarsi dal lavoro. Assolutamente. Professor Centonze, chissà che cervello avrà lei che fa il ricercatore, ma non voglio saperlo. Noi oggi parleremo naturalmente anche di lavoro manuale, penso che questa sarà anche una buona occasione per parlare di un tipo di lavoro che richiede tante competenze, molta abilità, spirito di sacrificio, anche forza, determinazione, carattere, che è quello della casalinga. Eppure molte casalinghe alla domanda che lavoro fai rispondono non lavoro nulla, di questo parleremo. Anzi, dottor Ballerini, approfitto di lei che i manager li ha studiati e analizzati per fare tra poco un parallelo tra casalinga e manager, forse hanno molti molti punti in comune. Professor Centonze, la lascio al suo lavoro e la ringrazio. Grazie a lei, buona giornata. Io vi ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24. Arrivano già molti contributi dei nostri ascoltatori che ringrazio come sempre, al 349 238 6666. Il mio lavoro mi dà la possibilità di svolgere un hobby a tempo pieno ed essere pagato e finanziato. Sono un gioielliere, una forte passione per gemme e metalli. Da quando ho iniziato 12 anni fa è come se fossi andato in pensione e facessi ciò che voglio. Ciao Pietro, ci scrive, 34 anni. Io faccio l'operaio turnista

per esempio è buona norma in questo caso prenderla a stomaco pieno, perché l'aspirina può avere degli effetti gastrici. Consiglierei la somministrazione al mattino o dopo colazione o al massimo dopo pranzo, perché le ore del mattino sono quelle un pochino più in cui le piastrine si aggregano un po' di più. Ecco, poi uno rispetta sempre lo stesso orario, si abitua, lo prende dopo colazione o dopo pranzo, per esempio. Professor Manfredini, questo è un tema che interessa molto i nostri ascoltatori. Ci sono tanti ascoltatori che mi stanno scrivendo il nome del farmaco e mi chiedono. A me è venuta un'idea: torna a trovarci e facciamo tutto l'ora delle medicine, ma c'è anche un'ora per fare sport, per imparare. Volentieri. L'ora giusta per tutto? Va bene. Allora ci sentiamo i primi di febbraio e così facciamo un'intera puntata. Professore, d'accordo. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Pronto soccorso. Le tre regole di lavoro. 1. Esci dalla confusione, trova semplicità. 2. Dalla discordia, trova armonia. 3. Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole. Albert Einstein. Torniamo a parlare di lavoro. Una domanda che possiamo rivolgere ai nostri ascoltatori per attivarli ad intervenire all'824-0024. Dottor Ballerini, che cosa ti cambia, che cosa ti dà e che cosa ti toglie? Ma andiamo oltre, che cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo da casa? Ma potremmo chiedere quando hanno avuto la necessità di cambiare lavoro e sembrava una situazione drammatica e magari è diventata un'opportunità. Quindi quando magari abbiamo avuto una sorpresa, qualcosa che ci sembrava negativo, abbiamo sentito nella frase di prima, no? Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole. Che ci raccontino magari qualche occasione favorevole. Ci tiriamo sul morale. Dottor Ballerini, ci tocca lavorare, abbiamo tanti messaggi per parlare di lavoro, come ci ha cambiato, che cosa vorremmo cambiare del nostro lavoro. Se abbiamo fatto delle scelte alternative, abbiamo magari rinunciato ad una carriera brillante perché abbiamo detto no, non nelle mie corde, scelgo altro, e io vorrei tra poco con lei parlare, come promesso, e le nostre amiche da casa lo aspettano, a fare un confronto tra manager e casalinga, perché la casalinga ha tantissime competenze che sono comuni al manager. Ma abbiamo Giorgio da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Giorgio e la trasmissione vi sento qualche volta in macchina. E la trasmissione di oggi mi ha dato lo spunto per segnalarvi una disciplina che probabilmente conoscete, che viene molto utilizzata nei paesi anglosassoni, che si chiama Financial Life Planning, sì. Che consiste praticamente nel tentare di aiutare le persone a scegliere qualcosa che sia coerente col tipo di vita che vogliono fare. In sintesi, tutto dipende se uno vuole usare la vita per far soldi oppure se i soldi gli servono per fare la vita che vuole. Quindi in momenti come questi di crisi forte e di forte preoccupazione, qualcuno potrebbe anche trovare lo spunto per rivedere la propria attività, ammesso che possa farlo, che ci siano le condizioni, sulla base di quello che è la vita che vuol fare e non solo legandola ai soldi, ma certo. Ai suoi sogni e alle sue necessità. Praticamente si tratta di prendere il processo della pianificazione finanziaria e utilizzarlo per stimolare la persona a fare delle scelte coerenti con quello stile di vita che vuole. Tutto qua. No, tutto qua. Un bel qua, Giorgio, nel senso che lei ci dà un ottimo spunto. E in effetti i momenti di crisi, Giorgio, che noi temiamo, lo vediamo anche nella vita personale e nella vita privata. Se riusciamo a starci dentro e a vederle con una certa serenità, dottor Ballerini, ci aiutano anche a fare magari delle scelte ulteriori, a prendere delle decisioni e a rivalutare la nostra situazione, un po' come diceva Giorgio, che ha fatto un bellissimo intervento e che ringrazio. Dottor Ballerini. È un bello spunto quello di Giorgio, perché ci dice della possibilità di ripensarci, no? Magari siamo un po' in difficoltà, cogliamo l'occasione magari per tirare fuori il cosiddetto sogno nel cassetto, di cui abbiamo parlato anche recentemente qua. Io sono a volte interpellato da alcune persone e secondo me è importante che ci sia un'attività di questo tipo, però per fare quello che si chiama il reality check. Il reality check vuol dire riportare su un piano di realtà il proprio sogno o il proprio desiderio, perché va bene ripensarsi, ma tanto più il momento è di crisi, tanto più il ricollocarsi o il trovare una nuova occupazione sarà legata a cosa io posso offrire sul mercato, cosa, che valore aggiunto posso fare. Allora il proprio desiderio, la propria ambizione, la propria aspettativa deve sempre fare un match, deve sempre essere controbilanciata con la reale possibilità, perché sennò questi sono sogni ma diventano illusioni, e sulle illusioni a volte ci si sfracella, purtroppo. Allora, dottor Ballerini, torniamo al nostro, a proposito di match, torniamo a un match casalinga manager, rapidamente, punti in comune, ce ne sono, in modo, io non vorrei più sentire le amiche che sono a casa dire non faccio nulla quando qualcuno dice che lavoro fai, nulla, faccio la casalinga, ecco, questa è una cosa che secondo a me personalmente quasi offende. Per la carità, basta dire così, perché quello che uno dice di sé è poi quello che gli altri diranno di me. Per cui è contagioso questo, il trasmettere agli altri il messaggio non faccio nulla, quando sappiamo benissimo che questo nulla invece è pieno, zeppo di attività, è pericoloso ed è un boomerang, perché poi ci tornerà indietro e ci farà male. Ecco, precedenza anche delle telefonate all'824 0024 a delle casalinghe soddisfatte. Oh, sì, assolutamente. Ecco, raccontateci un po' la vostra testimonianza, perché una donna che si occupa della gestione della casa, dei figli, della spesa, del bilancio, è a tutti gli effetti un dirigente. C'è un grandissimo parallelismo tra l'essere casalinga e l'essere manager, perché andiamo a vedere quali sono le doti di un manager, no? Allora si dice che un manager deve avere un project management. Project management vuol dire, in italiano, che cosa vuol dire? Che si deve sapere organizzare. Ma santo cielo, per fare bene la spesa e avere tutti gli ingredienti pronti per cucinare, altro che project management, perché se al momento giusto io non mi sono organizzato e non ho l'ingrediente, mi salta un piatto. La gestione del tempo, la gestione del budget e delle risorse. Allora il manager parla di gestione del budget e delle risorse, dell'ottimizzazione, ma noi sappiamo che una casalinga che sa gestire bene ad esempio l'utilizzo degli avanzi senza ripropinarli come avanzi al pasto successivo, ma arricchendoli, trasformandoli, facendo diventare una pietanza altrettanto saporita e gradita, altro che gestione delle risorse, che è questa. Marketing. E poi nelle relazioni, conciliare gli umori del marito che torna da casa, quelli del figlio adolescente che è arrabbiato con la scuola e i brufoli o ha lasciato dalla ragazza e la suocera che ci mette il becco, voglio per dire. I manager si parla di negotiation skill, quindi capacità di negoziazione. Vede. Altro che negoziazione, noi deve fare una casalinga. Ma ecco, come? Potremmo lanciare, fanno molti corsi di aggiornamento, di formazione con grandi esperti, dovrebbero in questi corsi inserire anche la casalinga, che avrebbe del suo da dire. Se lei posso, dice? Io rafforzerei dicendo mettiamo le casalinghe come docenti, perché molte casalinghe hanno da insegnare, sanno insegnare di marketing, perché il marketing parla del ciclo di prodotto, ma se io so gestire il ciclo lavaggio, stiro, utilizzo e di nuovo lavaggio e di nuovo stiro e di nuovo utilizzo, in modo che sia efficiente e tutti abbiano la camicia o la giacca pronta al mattino, questo è una straordinaria capacità di ciclo del prodotto. E poi dove la mettiamo la motivazione? No, i manager sono sempre alla ricerca e alla cosa di corsi e per motivarsi, per credere nel lavoro. Più motivante di una mamma, di una casalinga. Comunque, 824 0024, abbiamo messo un po' le carte a posto, abbiamo dato a Cesare quel che è di Cesare e andiamo a Maria Grazia, che ci chiama da Padova. Buongiorno Maria Grazia. Buongiorno signora e buongiorno a tutti. Ecco, ho sentito il discorso sulle casalinghe, sono perfettamente d'accordo. Io sono stata casalinga per un po' di tempo, fino a 42 anni, poi con la nascita del terzo figlio, quando è andato all'asilo, mi sono guardata intorno e ho trovato un lavoro part-time. Sì. Come dicevo alla persona che mi ha richiamato, ecco, potrebbe essere considerato un lavoro antipatico, un lavoro di routine. Io faccio lavoro in una società di recupero crediti, ma io le assicuro che alla mia tenera età vado ancora volentieri in ufficio e ci vado con gioia, e ogni giorno porto qualcosa della sensibilità femminile, e perché anche in questo lavoro, che potrebbe essere considerato appunto così particolare, cerco di portare l'aiuto, una sensibilità particolare, e ho ricevuto sempre tanti ringraziamenti. Grazie Maria Grazia per il suo intervento. C'è una poesia molto bella che leggevamo con il dottor Ballerini prima di entrare in onda, che paragona la passione per l'amore a una passione amorosa, no? E noi potremmo provare a seguire un po' questo spunto, perché dell'amore c'è passione, poi è un po' come le montagne russe, poi c'è anche un po' la crisi del settimo anno, e così poi si devono ritrovare comunque le energie per appassionarsi. A volte noi siamo troppo appassionati al lavoro, a volte è lui che non è appassionato, non ci ricambia con la dovuta passione. Abbiamo Carla che ci chiama dalla provincia di Reggio Emilia, 824 0024. Buongiorno. Buongiorno. Posso farle i complimenti? Lei è una persona squisitissima. Oh, ma grazie. Grazie, niente, Carla. È doveroso. Io metto a disposizione la mia esperienza. Io ho 60 anni. Sì. Sono una nonna. E 20 anni fa, quando ho fatto il mio secondo figlio, dopo 5-6 anni, avevo una babysitter che mi teneva i bambini. E quando ho sentito che il mio bambino piccolo chiamava mamma la babysitter, ho detto no. C'è qualche cosa che non quadra. Sì. Quindi, d'accordo con mio marito, mi sono licenziata, facevo l'impiegata, avevo anche un buono stipendio e sono rimasta a casa. Mm. Nel frattempo ho fatto un corso di inglese. Sì. E quando la professoressa ci ha interrogato, così chiedendo che lavoro facevamo, io ho detto la casalinga. E lei mi ha detto: non si dice casalinga, ma ingegnere della casa. Ingegnere della casa, bello, questo dottor Ballerini. Sì, a me non piace tantissimo, perché ingegnere rimanda qualche cosa, perché di... c'è un pizzico più di creatività, di fantasia nel lavoro adesso della casalinga. Adesso gli ingegneri, adesso ci chiamano gli ingegneri e si offendono, anche gli ingegneri sono creativi. Va bene, anche gli ingegneri sono creativi, intanto, ma diciamo che intanto, c'è bisogno, Carla, di versatilità. Versatilità. Così. Quindi Carla, una scelta per stare accanto al suo bambino, una scelta che però l'ha resa felice. Molto felice, perché io comunque faccio volontariato, quindi sono molto impegnata, e non mi sono mai sentita una di quelle casalinghe che non fanno niente, anzi. Il dottor Ballerini voleva intervenire, dottore. Carla, nella sua storia quello che mi colpisce è la mancanza di recriminazione, perché è proprio questo il punto forte. Se noi a volte ci autoimponiamo dei sacrifici, qualcosa, se lei mi avesse detto ho dovuto lasciare il lavoro per mio figlio, il sacrificio che ho fatto, poi questo a volte torna indietro come un boomerang al figlio stesso, ma non c'era un briciolo di recriminazione nel suo parlare, anzi la soddisfazione di aver fatto molte altre attività. Allora salutiamo Carla. Dottor Ballerini, facciamo questa cosa, abbiamo fatto prima casalinga manager, proviamo a fare storia d'amore e storia di lavoro, quasi due percorsi paralleli che hanno le stesse curve, diciamo così. 824 0024, adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, e poi abbiamo Daniel che ci chiama da Genova. Se però in tutto questo voi avete qualche cosa che del vostro lavoro vi fa soffrire, non vi piace, una decisione che state per prendere ma non sapete bene, possiamo approfittare del dottor Ballerini, che una mano sicuramente è in grado di darcelo. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di lavoro, vantaggi, limiti, dubbi. 824 0024, aspetto le vostre storie e andiamo al consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, oggi potete ricevere a casa il libro Il benessere in ufficio, suggerimenti per stare meglio nell'ambiente di lavoro. Naturalmente il libro arriva a casa del primo ascoltatore che raggiunge il nostro indirizzo di posta elettronica, esserebenessere@radio24.it, mettendo il titolo del libro, i recapiti e il numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Amare il proprio lavoro è la cosa che si avvicina più concretamente alla felicità sulla Terra. Primo Levi. Beh, che dite? Siete d'accordo? 824-0024. Nel corso della nostra trasmissione abbiamo selezionato frasi di scrittori celebri con cui voi potete essere d'accordo, magari prendere degli spunti per vedere la situazione in modo diverso. A volte basta proprio una frase. Daniel ci sta aspettando da un po', sta a Genova e cosa ci racconta? Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'intervento. Ecco, praticamente io lavoro in una ditta e faccio un lavoro manuale. Sì. E io volevo un consiglio da parte del dottore, nel senso che praticamente io durante 6 ore e mezza, 7 ore faccio sempre le stesse cose, cioè devo smontare e rimontare 3 macchine, no? E mentalmente sento che il mio cervello si è fermato lì. 2 anni fa ho cercato di sentire, perché a dire il vero sento sempre la vostra radio, ho cercato di non disconnettarmi tanto dal mondo e mantenermi sempre, almeno sempre, non mi piace sentire la musica, mi piace sentire questo programma più o meno, no? Per sapere quello che succede nel mondo, però mi è stato tolto anche questo. Allora io mi sento durante 6 ore rinchiuso in 40 metri quadri a fare le stesse sempre macchine. Che consiglio mi potrebbe dare il dottore per cercare di trovare un qualcosa per non stare durante 7 ore annoiato, ecco. Certo. Grazie Daniel. Io credo che, come Daniel, tante persone, dottor Ballerini, abbiano bisogno, no, di trovare una spinta, una guida, non qualcuno che li aiuti a trovare lavoro. Questo noi non possiamo farlo, almeno né io né il dottor Ballerini. Ma mi stava venendo in mente, un po' perché per trasporto nei confronti di Daniel, di aiutare i nostri ascoltatori, potremmo iniziare con Daniel, ad aiutarli con un percorso, a prendere magari delle decisioni, a individuare quali sono le loro caratteristiche, gli aspetti su cui puntare. Poi, secondo me, una volta che uno già riorganizza quello, può avere il coraggio di intraprendere delle strade. Ad esempio, Daniel, potremmo seguirlo? È ancora in linea con noi? Daniel? Sì. Allora, mettiamole a disposizione il dottor Ballerini e facciamo una sorta di percorso poi insieme a Daniel o a chi avesse bisogno di farsi seguire, di avere un suggerimento, un'indicazione, può scriverci a essere benessere@radio24.it, noi mettiamo a disposizione le competenze del dottor Ballerini. Torniamo a Daniel intanto. Ma Daniel, quello che tu dici è certamente molto coinvolgente, perché è fatto venire un po' la claustrofobia anche a noi, nel senso 7 ore chiuso. La prima questione è che margini ci sono di negoziazione con il datore di lavoro, perché intendo dire, mi pare di aver capito che è stata tolta la radio, no? Ad esempio, su questo uno potrebbe tornare un po' all'attacco. La questione poi che dobbiamo vedere è quanto questo lavoro chiede concentrazione, nel senso, perché 7 ore di concentrazione assoluta non le può garantire nessuno, per cui si tratta di vedere anche che tipo di lavoro è. Io percepivo una certa ripetitività e anche l'idea, no, del cervello che si ferma un attimino. Però l'idea del cervello che si ferma è un'idea viziata, perché il cervello non si ferma mai, perché il cervello può continuare a pensare, perché il cervello può elaborare delle soluzioni. Per cui certamente la situazione dichiarata è una situazione di difficoltà, ma non esiste situazione di difficoltà per nessuno in cui il pensiero non possa dare un aiuto. Per cui volentieri vediamo come possiamo uscire da questo. Daniel, ci scriva a essere benessere@radio24.it oppure metta a disposizione il suo numero, che possiamo risentirci facendo, con magari, se Daniel ci dà delle indicazioni precise, il dottor Ballerini può seguire il suo caso. Ma arrivano tanti suggerimenti dai nostri ascoltatori per Daniel. Ad esempio, Daniel, faccia come me, metta il pilota automatico e se ne vada su qualche pianeta lontano. Non è semplice, ma ci si riesce. Fabrizio ci scrive da Venezia. Luigi invece dice di occupare l'altra parte della sua giornata dedicandosi al volontariato. Questo sicuramente motiva e sono dei pensieri a cui si può rimandare quando si fa un lavoro ripetitivo, perché il volontariato non è mai automatico. Quindi ci sono tanti spunti, ma ci sono anche tante persone che ci chiedono aiuto. Ad esempio, 3 anni fa ho lasciato il lavoro per occuparmi di mio figlio, sono laureata, avevo un bel lavoro, ora vorrei tornare nel mondo del lavoro ma è difficilissimo, addirittura ometto la laurea, cerco lavori modesti ma non ci riesco, anche perché ho 40 anni e vogliono persone non oltre i 30. Aiutatemi con un consiglio, che sono molto depressa, ci scrive Sandra. Il consiglio che possiamo dare così, un po' generico, che magari vale un po' per tutti, è proprio qualcosa che ho accennato prima. Per rientrare adesso nel mondo del lavoro occorre offrire qualche cosa. Nessuno mi prende perché sono io, o nessuno mi prende perché un po' di anni fa facevo qualcosa. Allora qui è proprio il lavoro, che il life planner, che abbiamo, la prima telefonata di questa trasmissione abbiamo aperto con questo, no? Si tratta proprio di mettersi a tavolino e iniziare a pensare, a ripensarsi, a considerare quali sono le mie competenze, che cosa posso offrire io oggi al mondo del lavoro, e iniziare, fra virgolette, a vendere a qualcuno che è interessato, per cui c'è un lavoro da fare. Allora, siamo a vostra disposizione, potete sempre scriverci, metteremo a disposizione il dottor Ballerini, che non ha la bacchetta magica, ahimè, per individuare, per trovarvi il lavoro, ma sicuramente possiamo insieme, anche con l'aiuto degli altri ascoltatori, come una sorta di forum, cercare di riorganizzare un po' la nostra vita e prendere delle decisioni. Ci conto molto. Adesso facciamo un salto invece a Trieste, proprio due minutini, ci tengo molto perché c'è un convegno che parla di musica e di scienza, ed in linea con noi abbiamo il professor Stefano Fantoni, direttore della SISSA, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a lei. Professore, studiare musica allena il cervello. È ormai saputo che i bambini che studiano uno strumento musicale sono facilitati anche nell'apprendimento di altre materie. Lo sanno tutti, solo da noi la musica è un po' la cenerentola tra le materie di studio. Ma perché imparano meglio? Voi ne state discutendo proprio in questo importante convegno. Ma dunque, noi abbiamo impostato proprio questo ragionamento cercando di andare a recuperare quelle che sono anche le basi scientifiche, sì, quello che lei ha detto, quindi abbiamo avuto qui dei neuroscienziati anche importanti venuti dagli Stati Uniti che lavorano proprio su questo campo delle scienze cognitive e dell'educazione, che in sostanza hanno confermato da un punto di vista fortemente scientifico quello che lei ha detto e che tutti, come diceva, sapevamo tutto sommato, ma che in realtà adesso, insomma, io credo comincia ad avere una sua sostanza. Quindi i bambini che studiano musica sono più bravi anche nelle altre materie. Beh, insomma, possono essere più bravi. L'aiuta. Professore, ma questo è valido anche per chi non è più bambino? Cioè si può, noi stiamo sempre insistendo sul tenerci in allenamento, non far addormentare il cervello, che ha bisogno sempre di nutrimento, possiamo proporre con basi scientifiche anche agli ascoltatori di iniziare a studiare uno strumento musicale, in qualche modo la vita migliorerà? Ma ora questo è un po' meno scientificamente. Lo chieda ai suoi esperti, io devo salutarla perché sennò mi sfumano, e se lei avesse una buona risposta mi chiami, perché la diciamo in diretta agli ascoltatori. Grazie professor Fantoni, buon convegno. Grazie. Dottor Ballerini, noi ci siamo impegnati, se i nostri ascoltatori hanno bisogno di una guida noi siamo qui come sempre, e appuntamento invece tra di noi a domani dopo il GR delle 11, una puntata difficile in cui parleremo di tumore al seno, vi aspetto.